sbattimento in fiamme nell'arco dei bastioni. E ho visto i raggi lì balenare nel buio vicino alle porte di Thanos. Dalla terra nasce una vita e dalla terra nascono idee. Se sulle terre si vive o si muore, di questa terra si sogna l'amore. Artificiale, superficiale, artificiale, superficiale, artificiale, superficiale, artificiale, superficiale. Torna di luce, plasma i miei colori, soddisfazione, partecipazione. Scorre la mano, bella storia sei, compra la voce, parla pure con me. Artificiale, superficiale, artificiale, superficiale, artificiale, superficiale, artificiale, superficiale. Un momento di dramma per tutti. Yeah.